Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Via libera di ieri della Camera dei Comuni alla legge sui matrimoni omosessuali nel Regno Unito apre una nuova fase in tema di diritti civili. Con l'introduzione del provvedimento le coppie dello stesso sesso potranno unirsi in matrimonio godendo di tutti i diritti delle coppie etero. Finora la legge permetteva solo unioni civili che offrivano agli omosessuali una serie di garanzie su materie come eredità, pensione e mantenimento dei figli. Limitate al minimo le conseguenze sul mondo religioso, la legge infatti è stata recentemente modificata per escludere la possibilità di celebrare le nozze gay da parte della Chiesa anglicana. Adesso è attesa alla Camera Alta del Parlamento che dovrà pronunciarsi entro maggio, poi tornerà ai comuni per un secondo e ancora più decisivo voto. Mi rendo conto che non per tutti può essere considerato questo un problema essenziale in un momento molto particolare come quello che stiamo attraversando, momento di congiuntura economica, momento di tensione, di attenzione politica, momento generale di totale disagio, però è un problema che comunque va affrontato, in cui è necessario comunque farsi un punto di vista e farsi un'idea. Perché? Perché rappresenta, almeno nella nostra condizione socio-antropologica e territoriale, qualcosa che cambia fortemente quello che è il convincimento tradizionale. Hanno diritto le coppie di persone che appartengono allo stesso sesso di avere un riconoscimento giuridico e quindi tutti i diritti di conseguenza che hanno le coppie giuridicamente riconosciute? C'è un impedimento, e dove affonda questo impedimento? È un impedimento di tipo religioso, non si può perché Dio non vuole, vivono nel peccato. Un impedimento di tipo più generale, legato alla opportunità che comunque sia le risorse vadano usate, le risorse che vengono date di sostegno e di aiuto alla famiglia, vanno date alle coppie regolarmente assortite, cioè fatte di un uomo e di una donna. C'è una paura profonda, inspiegabile, impalpabile: cosa accadrà se si fermerà il mondo, l'umanità non si evolverà più, siamo a un punto zero, gli uomini si sposeranno con gli uomini, le donne con le donne, chi farà più i bambini? E poi tutti i problemi di conseguenza, se no anche semplicemente un disagio inspiegabile, non comprensibile, perché è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui da generazioni siamo abituati a considerare. D'altresì, dal tuo punto di vista, è importante e necessario che il diritto di alcune categorie vada sopra il diritto dei più, i meno possono decidere sui più, insomma è vastissimo. Io parto subito dal mio punto di vista, io sono per la massima libertà, ognuno di esprimere il suo parere e ognuno di avere tutte le garanzie che siano possibili per sostenere il proprio progetto di vita, quindi non ho nessun tipo di pregiudizio, ma nemmeno sono uno sfegatato che scenderebbe in piazza per dire assolutamente non avere i loro diritti. Voglio capirlo e lo voglio capire assieme a voi questa mattina. L'Europa si sta muovendo. Avete sentito, ci sono state delle prese di posizione molto chiare, ma parliamo di paesi molto più laici, molto meno condizionati comunque da un'idea monocratica di una sorta di principio religioso che dovrebbe ispirare, anche laddove non è rappresentato in forma ufficiale, anche ogni scelta di tipo civile. 249 sì e 97 no. Con questa schiacciante maggioranza i deputati dell'Assemblea nazionale francese hanno dato il via libera all'articolo chiave del progetto di legge che ridefinisce il matrimonio come un accordo tra due persone di sesso diverso o del medesimo sesso. Con oltre 5.000 emendamenti presentati dall'opposizione, la discussione tra i deputati continuerà per almeno due settimane, poi il successivo passaggio al Senato, ma ora la Francia è sempre più vicina all'adozione della legge sulle nozze per le coppie gay, fortemente voluta dai socialisti del presidente Hollande, è una delle principali promesse della sua campagna elettorale. Ma altrettanto fortemente osteggiata dal centrodestra e dal mondo cattolico, che con il fronte del no avevano portato in piazza a Parigi il 13 gennaio scorso centinaia di migliaia di persone. La destra teme 8 che la 00024 00024 la Francia, poi l'Inghilterra, sembra che ormai in altri paesi a noi molto vicini, vicini per cultura, per contiguità anche geografica, per similitudine dell'immaginario, il problema sembra risolto, sembra non esserci più. Da noi però ancora c'è un forte, grande ostacolo, c'è l'aspetto legato comunque a una scelta che va oltre quelle che sono le scelte degli uomini, una sorta di disegno divino che verrebbe infranto, oltraggiato, non assecondato con una scelta così perversa, come due uomini o due donne dello stesso sesso, due esseri umani dello stesso sesso che decidono di creare una coppia. Il 54% degli italiani è favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso, è quanto rileva l'Istituto di Ricerche Data Monitor in un'indagine, dalla quale emerge anche che però la grandissima maggioranza si dice contraria all'adozione per le coppie gay. La percentuale dei favorevoli alle nozze gay risulta in crescita rispetto alla precedente rilevazione sull'argomento del maggio 2012, che era del 53,4%. Gli italiani contrari alle unioni omosessuali sono il 43,2%, 44,2% a maggio. Per quanto riguarda la possibilità che le coppie gay adottino un figlio, per il 77,1% del campione non dovrebbe essere possibile. Potrebbe accadere, come oggi dice Ignazio Ingrao su Panorama, che alla fine tutte queste grandi battaglie civili che sembravano ostacoli insuperabili, non negoziabili, il divorzio, l'aborto, che poi sono state chiaramente sottoposte a referendum popolare, alla fine si è capito che gli italiani radicalmente sono forse più laici e meno condizionati di quanto sembra. Il problema si differenzia naturalmente rispetto al diritto di avere il riconoscimento giuridico della propria unione, poi il diritto anche a avere dei figli in adozione cambia notevolmente. Anche su questo ci articoleremo diversamente. 800 24 00 24. Apertura del Vaticano in materia di famiglia e di diritti per le coppie gay. Portavoce l'arcivescovo Vincenzo Paglia, neopresidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Un'apertura per il riconoscimento dei diritti per le coppie di fatto omosessuali, secondo il Codice Civile, e per l'ammissione alla comunione dei divorziati risposati. Per Monsignor Paglia si tratta di impedire le ingiustizie verso i più deboli, visto che nel mondo persistono le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. So di almeno un 20-25 paesi dove l'omosessualità è reato e c'è un silenzio in genere su questo, ma comunque io sono d'accordo che bisogna evitare ogni discriminazione. No deciso invece della Chiesa alle nozze gay, ha precisato il ministro. Sì, naturalmente si dà una botta al cerchio, una botta alla vuote. È giusto, è chiaro, non possono che essere contrari. Paesi in cui vengono messi nei lager, vengono isolati, vengono perseguiti, vengono impiccati gli omosessuali, naturalmente no, sulle nozze non si può naturalmente, si va contro qualcosa di non più negoziabile, come ha detto qualche uomo politico ultimamente, sta dicendo sempre di più. Però un effetto ricaduta c'è sulle decisioni dei governi francese e inglese, e ce lo racconta questa mattina una notizia fresca di giornata uscita sul sito del Fatto Quotidiano, l'avvocato Gianettore Gassani. Gassani, buongiorno. Buongiorno. Ricordo, presidente Associazione Nazionale degli Avvocati Matrimonialisti, nostro frequente ospite, ha scritto un testo fondamentale, I Perplessi Sposi, edizione Liberti, che è un po' la Bibbia di tutti coloro che vogliono rifare il punto, perlomeno riflettere sulla loro unione matrimoniale. Allora, Mosca ha detto, Francia e Gran Bretagna non avranno i nostri bambini. La notizia me l'hai portata questa mattina, c'ho davanti la stampa. Cosa è accaduto? È accaduto che il Cremlino dice, ah sì, voi aprite le coppie omosessuali, benissimo, non diamo più figli in adozione ai vostri paesi per rischio che qualcuno se lo prenda, che in realtà è fatto di due padri e di due madri. Beh, è una posizione molto, molto reazionaria da parte di Mosca. Sappiamo perfettamente che la Russia è un paese quasi omofobo, nel senso che fino al 99 addirittura veniva considerata una malattia l'omosessualità, quindi non c'è da meravigliarsi, ma credo che non soltanto la Russia ma anche altri paesi prenderanno la stessa decisione. Il problema delle adozioni dei minori da parte delle coppie gay, secondo me, è su un piano completamente diverso rispetto al tema della questione, cioè sui matrimoni dei gay. Intanto è vero che in base poi alle statistiche dell'Istat c'è una grande differenza tra i consensi per le nozze dei gay, ma fondamentalmente c'è un dissenso non dico unanime, ma quasi, per quanto riguarda le adozioni ai gay. Tanto è vero che nello stesso mondo omosessuale c'è un grande dibattito da questo punto di vista. Vediamo questa mattina, cominciando dal punto di vista proprio tuo professionale, come avvocato matrimonialista, quali sarebbero gli impedimenti riguardo il nostro diritto da un punto di vista legale perché una coppia di uomini, una coppia di donne decida di dare un senso giuridico alla propria unione? Quale vantaggi avrebbero e perché non possono farlo? Ma infatti io non posso, bisogna stabilire se vogliamo fare una questione morale o giuridica. No, giuridica, totalmente giuridica. Ecco, perché io da giurista devo dire che posso avere tutte le idee che voglio, ma non credo che ci sia un solo impedimento di carattere costituzionale per non consentire alle coppie gay di sposarsi. Guardiamoci la Costituzione, l'articolo 3 e l'articolo 29. Non c'è alcun punto dove si fa riferimento al matrimonio tra uomo e donna per forza. Probabilmente c'è anche da considerare che quando i fondatori, coloro i quali scrissero la Costituzione, nemmeno si potevano immaginare che ci fosse potesse esserci un matrimonio tra gay. Saranno anche stati sicuramente omosessuali fra i padri della patria, ma non esiste nemmeno l'idea lontana che ciò non solo venisse alla luce, ma poi potesse diventare un'unione. Però non c'è nessuna parte della Costituzione che lo vieta, che vieta le nozze dei gay. E vede, la cosa più difficile è comprimere i diritti. Come si fa a comprimere un diritto? Se partiamo dall'articolo 3 della Costituzione che parla di uguaglianza, se le nozze dei gay non producono danni a qualcuno, come facciamo a vietarle? Io credo che inevitabilmente si arriverà al sì alle coppie gay, forse fa 20 anni, fa 30 anni, ma non dimentichiamo che se è passato l'aborto in Italia può passare qualsiasi cosa. Come stai dicendo, avvocato Gassani, che in realtà, se non c'è un iter legislativo su questa cosa qui, l'impedimento è puramente tipo ideologico, etico e morale, perché se dal punto di vista legale può accadere, era semplicissimo, era una formalità, è come dire, non so, adesso non so fare un paragone, è una cosa banalissima. Beh, la strada è lunga, basti considerare che oggi non sono riconosciute le coppie di fatto eterosessuali, sono fuori dal codice, fuori dalla società. Non sono quindi altrettanto riconosciute le coppie omosessuali, figuriamoci il matrimonio dei gay. Allora, usciamo sempre dal sentiero limaccioso dell'ideologia o delle convinzioni, esatto, di tipo superiore. Quali sono i vantaggi concreti e reali che una coppia di persone omosessuali che decidono di sposarsi, anche se il termine forse non è quello esatto, comunque di legalizzare la loro unione? Cosa non hanno adesso che avrebbero con la legalizzazione? Ma secondo me innanzitutto l'aspetto della stabilità e l'aspetto psicologico, che non è da poco. Ma in ogni caso poi concretamente i diritti successori, chiaramente i due coniugi hanno la possibilità di succedere all'altro, la pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto, tutta una serie di vantaggi in caso di separazione, quindi l'assegno di mantenimento, nuovi clienti per voi, di divorzio anche e quindi voglio dire tutti i vantaggi che hanno attualmente i coniugi eterosessuali. Quindi indipendentemente dalle posizioni dell'associazione degli avvocati matrimonialisti, molti di noi sono assolutamente contrari, ma parlando in punto di diritto non posso essere contrari, dal punto di vista giuridico è un autogol. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Rispetto a quello di cui stiamo parlando, forse c'è un cane che abbaia. Sì, è il mio cane, aspetta. Oggi nessuno più si sottrae da ostentare cani, quindi anche i nostri ascoltatori, dopo Berlusconi anche Monti, e quindi anche Alessandra ha un cane accanto. Alessandra, come vedi questo problema? Ma l'Italia è sicuramente ormai in una posizione molto scomoda in Europa. L'Europa dappertutto è andata verso la legalizzazione dei matrimoni gay o delle unioni civili. L'Italia è, si usa dire, fanalino di coda. C'è, diciamo, una intera fetta di popolazione, dei cittadini che pagano le tasse, a cui non vengono riconosciuti diritti uguali agli altri. E sempre più diventa imbarazzante per la politica giustificare la mancanza di leggi sulle unioni civili. Ecco, tu vivi sulla tua persona questo problema, questa mancanza di un riconoscimento legale, ufficiale della tua unione? Ma sicuramente io, diciamo, convivo con la mia compagna da 7 anni, siamo a tutti gli effetti una famiglia. C'è da considerare anche che la mia compagna ha un figlio avuto da una precedente relazione eterosessuale, un precedente matrimonio. Il ragazzo è cresciuto con noi, vive con noi, siamo una felice famiglia allargata. Se dovesse finire il nostro rapporto, sicuramente la parte più debole della coppia non avrebbe tutele. Quello che diceva prima l'avvocato è sicuramente giusto, cioè manca ogni previsione di diritto che consenta soprattutto alla parte più debole della coppia di essere tutelata. Ecco, nel quotidiano, per capire, dove si sente la mancanza di questa sorta di riconoscimento? Lasciamo perdere i discorsi ideologici, reali, che è un diritto che giustamente le persone soffrono perché non si sentono riconosciute come altre persone. Ma nel tuo quotidiano, dove ti accorgi improvvisamente che ti manca qualcosa e sei di serie B rispetto a una qualsiasi altra persona? Ma c'è sicuramente, per esempio, nell'ambito familiare una diversità rispetto a fratelli o sorelle che sono regolarmente sposati. C'è una, perché diciamo, dare il diritto alle coppie omosessuali di sposarsi è anche un modo per combattere l'omofobia, per combattere le discriminazioni, perché sancire un principio di uguaglianza e vedere che la mia famiglia è uguale a quella di mia sorella comporterebbe anche il fatto che, per esempio, mia madre vedrebbe con un occhio diverso la mia unione omosessuale, i miei vicini di casa, il mio gruppo di amici. Stabilire un principio di uguaglianza è un modo per combattere anche socialmente forme striscianti di discriminazione. E sul piano pratico, poi pratico, concreto, monetario? Ma per esempio, se la mia compagna andasse in ospedale, io non avrei alcun titolo per poter intervenire rispetto a decisioni da prendere nei suoi confronti. Se vogliamo accedere al credito in banca per comprarci una casa, non siamo una coppia coniugata. Se rispetto al figlio della mia compagna io non ho alcun titolo per poter intervenire. Ci sono molti aspetti della vita quotidiana che vengono, diciamo, minacciati dalla mancanza di una legge. Fermiamoci un attimo. Graziella abbiamo già... Sì, Graziella? Sì. Ci sono. Buongiorno. Niente, non vorrei uscire dal tema. Io sono perfettamente d'accordo che i diritti degli omosessuali debbano essere acquisiti, forse ancora di più delle coppie di fatto, che hanno in ogni caso più possibilità di accedere a un matrimonio a tutti gli effetti. Loro non ce l'hanno in nessun caso. E volevo paragonare un attimino le perplessità che sento esprimere in altre trasmissioni, anche ieri sera con, mi pare, la Zanzara, del fatto che ci siano dei figli nell'ambito di una famiglia omosessuale. Io 40 anni fa mi sono sposata con rito civile a 20 anni, era una cosa fuori di testa, nel senso che non era accettata comunemente. E quando abbiamo avuto dei figli, dopo 3 anni, abbiamo deciso di non battezzarli perché non volevamo influenzarli in nessun modo e ci sembrava coerente con la nostra scelta di vita. Ci sono stati dei problemi, come immagino li abbiano i figli, magari con due, sì, padri. Però da un punto di vista civile potevate accendere un mutuo, certo, in banca, potevate all'ospedale avere diritto di intervenire. Tutto quello che ha detto civile, la signora, ce l'aveate voi. Certo, ma quello che voglio dire, il giudizio da parte, non so, mia figlia che va a scuola e non è, e gli altri bambini mormoravano, i suoi genitori non sono sposati. In chiesa, tra parentesi, non veniva neanche detto. Sì, questa è una cosa, penso, anni 50, perché oggi non... Esatto, è esattamente il contrario. Penso che sia paragonabile al fatto di chi ha la perplessità di dire un bambino si trova a disagio perché ha due maschi, non ha un padre e una madre, ma... ecco, no, lei però sta dicendo una cosa importante. Lo stesso percorso, mi corregga se sbaglio, che abbiamo, certo, fatto noi che in quegli anni oscuri e retrogradi avevamo il coraggio di sposarci solo civilmente, non in chiesa, venivamo considerati come una sorta, certo, di persone senza Dio, veniamo additati, certo, una donna sposata solo civilmente. Le mie nonne erano scandalizzate. Figuriamoci, era una donna perduta, era già c'era l'inferno spalancato di sotto. Lo passeranno per un certo periodo anche le coppie ufficializzate omosessuali, poi alla fine entrerà nella normale sopportazione. Ma più che la coppia, il fatto dei figli, quando ci sono dei figli che non sono inquadrati nella logica della comunità, che era una comunità cattolica, ci sono stati dei problemi che si sono affrontati. Sì, ma io penso che sia l'ultimo dei problemi pensare cosa dicono i compagni dei figli adottati o avuti da una coppia omosessuale, sia l'ultimo dei problemi oggi. Crescerà il livello di percezione della società come episodio banalmente normale, quindi avranno un periodo di difficoltà come l'hanno avuto i suoi figli. I suoi figli erano figli di genitori senza Dio, i figli delle coppie omosessuali saranno figli di guardati con sorrisetti, con ammiccamenti, per una generazione, per due generazioni, ma non cambia, non evolve la società se non si affronta questo tipo di incongruenza e di la massa non accetta il cambiamento, buono o cattivo che sia, utile o non utile che sia, congruo o inopportuno che sia. Però una volta rotto il muro, poi la cosa cambia. Melog, la realtà condivisa. 800240024, oggi parliamo delle coppie omosessuali. Omosessuali nel senso coppie formate da persone che appartengono allo stesso genere, o due uomini o due donne. Hanno diritto queste persone comunque di avere un riconoscimento giuridico alla loro unione, che comporterebbe loro dei banalissimi vantaggi che ogni coppia ha, oppure devono continuare a vivere rimanendo coperte da un velo di ipocrisia? Tutti sanno, stanno lì, possono stare assieme naturalmente, nessuno li deporta, nessuno li porta nei lager, nessuno li impicca, però appartengono a una categoria inferiore dell'umanità. Ma questo già accade comunque attualmente anche nelle coppie regolarmente apparentemente costituite, quando vanno di fronte al giudice per la separazione. Ce lo conferma l'avvocato Gianettore Gassani, ricordo presidente dell'Associazione Nazionale Avvocati Matrimonialisti. Allora, Gianettore Gassani, cosa accade quando in una disputa matrimoniale viene fuori che uno dei due, soprattutto il maschio, penso accada questo, ha un amante dello stesso genere a cui gli appartiene? Ma noi abbiamo una folta letteratura giudiziaria che dimostra un'omofobia anche del sistema, perché fino a qualche anno fa, quando si scopriva che uno dei due, padre o madre, erano omosessuali, erano dolori in tema di affidamento dei figli. Era uno strumento, diciamo, per il coniuge avverso. Era uno strumento per strappare i figli a quel genitore gay, e ancora oggi c'è questa cultura. In molti tribunali ancora il padre omosessuale o la madre omosessuale vengono visti come persone portatrici di disvalori. A cui non si può affidare il figlio, magari? Probabilmente non ci sono resistenze in ordine all'affidamento condiviso, in ordine al pernotto. Ovviamente nella stragrande maggioranza dei tribunali queste cose stanno cambiando, ma non dimentichiamo che abbiamo passato gli ultimi 20 anni a combattere a furia di perizie e controperizie per dimostrare che l'omosessualità non è una malattia e che comunque il padre omosessuale o la madre omosessuale avrebbero potuto tranquillamente svolgere le loro mansioni genitoriali al meglio. Cioè il solo fatto di dover nominare un collegio di periti per verificare se un padre omosessuale sia una persona affetta da pedofilia o affetta da comportamenti che possono in qualche modo destabilizzare la psiche del bambino, già il fatto di porsi questo problema, a mio parere, è stata già una grave ingiustizia. L'immaginario comune, banale, è l'omosessuale una persona che vive facendo orge dalla mattina alla sera. Ma la maggior parte dei pedofili sono eterosessuali. La maggior parte dei pedofili sono eterosessuali. La maggior parte dei pedofili fanno i bidelli, esatto. Fanno gli allenatori di attività sportive, esatto. Fanno i pediatri, fanno queste cose qua. Non è esatto. Che, sì, ma... E noi avvocati abbiamo lottato. Io credo che il ruolo dell'avvocatura in questi anni sia stato fondamentale per scardinare anche questa cultura. Indipendentemente dalle nostre posizioni personali, quando ci siamo resi conto che non si poteva più andare avanti con investigazioni che andavano a scoprire che il papà era omosessuale, che quindi non meritava, era indegno di vedere i figli, tutti all'unisono ci siamo resi conto che dovevamo combattere anche contro una certa cultura giuridico-giudiziaria. Ecco, adesso introduciamo un'altra posizione, che non è la posizione solita, la posizione di tipo clerical-confessionale, che molte volte è anche intrisa di una grossissima ipocrisia, purché non si sappia e non si veda. No, la posizione è corroborata da una profondità di tipo diverso. Ida Magli, buongiorno. Buongiorno. Ida Magli è un'antropologa conosciuta, nostra ospite graditissima, autrice di Dopo l'Occidente, Biblioteca Universale Rizzoli. Professoressa Magli, lei rispetto a questo problema come la pensa? Ma guardi, io fino a questo momento ho sentito parlare di diritto al matrimonio, no? A un'unione legalizzata, che possano fare il mutuo assieme e pagare le tasse assieme. No, ma il fatto è che in tutte le società antiche, primitive, medievali, occidentali e non occidentali, il matrimonio è un dovere, è stato sempre un dovere, e cioè l'istituzione, anche se non si chiamava matrimonio, perché matrimonio è già una parola nostra, è una, diciamo, creazione di qualsiasi gruppo umano per proteggere il nuovo nato, e cioè obbligare la coppia, ovviamente nessuno mai avrebbe pensato a una coppia omosessuale, perché ovviamente è sterile, quindi stiamo parlando della protezione del nuovo nato. La società, un gruppo qualsiasi, protegge la prosecuzione della propria vita proteggendo il nuovo nato. Quindi l'obbligo di provvedere da parte della coppia, stando insieme al nuovo nato, è questa l'istituzione matrimoniale, un obbligo. Però non ci diritto. Riferiamo, professoressa, in tempi in cui la madre doveva stare a casa a levare, all'altare. Ma stiamo parlando di tempi e il padre usciva a cacciare. Sono nostri. Mm. In tutti i secoli la donna non è stata sempre a casa. Voglio dire che qui i discorsi che si fanno anche stamattina sono discorsi che vedono gli anni 50 come se fossero gli anni, che so io, 2000 avanti Cristo. Cioè noi abbiamo fatto nella società occidentale, ma sto parlando di società occidentale solo per quanto riguarda l'Europa e l'America, perché è questa una società che, mi sia permesso dirlo, sta morendo. E sta morendo perché la società vive di doveri, non di diritti. Io prego chi mi conosce di credere che qui non c'è nessun pregiudizio di nessun genere. Sto parlando oggettivamente. I Damagli nei suoi libri, le tasse, no, lo dico agli ascoltatori, i Damagli nel suo libro ha parlato di omosessualità legata comunque alla Chiesa Cattolica, quando questo era un'eresia totale. Quindi non è solamente la persona da cui ci aspettiamo un discorso pregiudiziale. Lo dice da antropologa, la sua visione è puramente antropologica. Mi corregga se ho detto una bestialità. Ma naturalmente poi la Chiesa, guardi che la Chiesa ha trasformato l'unione matrimoniale in sacramento molto tardi, e cioè intorno all'anno 1000. E sa perché l'ha fatto? L'ha fatto perché voleva che la donna nel matrimonio esprimesse un consenso, fosse cioè un soggetto alla pari del maschio. E questo è successo intorno all'anno 1000, quindi sto parlando di strutture sociali di cui oggi veramente si è persa perfino la capacità di pensarle. Quando, ripeto, sento parlare di diritti, ci dimentichiamo che noi paghiamo le tasse per salvare la società, non per salvare noi stessi immediatamente. Ma la società sì, è fatta di doveri. Eh sì, poi una volta che la società ha avuto la sua evoluzione, nel bene o nel male, uno può essere d'accordo o non d'accordo, può rimpiangere età dell'oro, periodi diversi, vedere, stare di fronte alle rovine e dire Dio mio dove siamo arrivati, ma una volta la società ha preso questo indirizzo, qual è il punto di vista secondo lei corretto? La restaurazione mi sembra... l'unica restaurazione possibile, come fanno in Iran, li impiccano o li mettono... No, io sto dicendo soltanto una cosa, prego di credere che bisogna un pochino anche allontanarsi dall'immediato, no? Perché altrimenti chiaramente facciamo quello che serve soltanto all'individuo e ci dimentichiamo che abbiamo una società, un gruppo. Io sono convinta che l'omosessualità odierna, che nel giro di pochi anni è diventato, come hanno detto anche gli avvocati poco fa, da fattore negativo a fattore perlomeno neutro, se non addirittura positivo. Vedo ormai che c'è chi si vanta, no, di essere omosessuale, cosa che in altri tempi non sarebbe successa. Ma questo non, lo considera diciamo un vantaggio per il benessere generale delle persone tutte, che no, ci sia più tolleranza? No, perché al servizio, scusi, voglio perlomeno chiarire questo punto. Gli omosessuali sono diventati un fattore di omogeneizzazione, cioè si diventa tutti uguali, perfino chi sembrava più diverso, l'omosessuale, diventa uguale, e questo è un processo voluto dalla mondializzazione, e cioè ci sono poche persone che guidano nascostamente il mondo, perlomeno il mondo occidentale, e parlo proprio di banchieri, che però sono naturalmente non il nostro Draghi o il nostro Monti, che tendono al mercato mondiale, all'omogeneizzazione, e per fare questo devono ridurre gli individui ad essere tutti uguali. Quindi diciamo, cioè, secondo lei, questi sono temi che ricorrono spesso, esiste un disegno generale per cui l'Occidente, c'è cioè questa istigazione, integrazione, orgoglio per cui si uccide la società occidentale dando agli omosessualità possibilità di sposarsi, di avere figli in adozione, così si esaurisce, diciamo, la stirpe occidentale, non nascono più bambini. Questo alla fine è il risultato finale, secondo lei? Poco fa, per esempio, quella signora che diceva: per essere uguale davanti agli occhi di mia madre, a mio fratello e a mia sorella, devo sposarmi, giusto? È vero, certo, però è il principio è essere uguali, e questo è. Ma non sento un senso, io non lo so, guardi, io sono lungi da anni luce a avere posizioni ideologiche, ma non sento un senso di leggerezza, dire vabbè, almeno è un problema in meno per tutti, si sentiranno uguali. Non trova che sia proprio la segregazione, l'obbligo a tenere nascoste comunque delle proprie aspettative di vita che peggiori la società? Una volta che tutti sentiranno uguali, potranno far tutto, secondo me si stabilizzerà il problema. No, perché no. Quando saremo tutti uguali, naturalmente, io sto dicendo saremo tutti uguali, naturalmente non lo saremo, questo è il punto, e cioè chi è più forte a questo punto sarà soltanto chi ha il potere, mentre diciamo, non lo sto dicendo per il matrimonio degli omosessuali, lo dico perché è un'analisi generale sulla nostra società. Sempre di più la differenza sarà fra chi ha il potere, e per potere intendo il potere politico ovviamente, che è l'unico potere, e tutti gli altri saranno sudditi, mentre in realtà la differenza fra individui, e naturalmente la prima differenza che si opponeva al potere nelle società e ancora oggi si oppone al potere, è quello del gruppo familiare, e cioè la unità del sangue, perché diciamo questa è la vera differenza, no? Una struttura che ha insieme il sangue, quella è la famiglia. Però i dati di fatto, professor Samagli, poi diamo le informazioni della borsa, abbiamo qui davanti un avvocato matrimonialista che ci dice l'istituzione matrimoniale, come tradizionalmente era intesa, ormai un'istituzione, almeno nella nostra particolare contingenza, spazio territoriale, culturale, superata. Se no, non tante persone verrebbero da me ogni giorno a dirmi che il loro matrimonio, così come costituito, non funziona più, non è più il nucleo basilare in cui si organizza la società. La società è cambiata. Uno, noi possiamo vivere di rimpianti, possiamo dire che questo ci porterà magari alla distruzione o all'estrema salvezza, però è un dato di fatto. Fermiamoci un istante. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo parlando di unioni omosessuali, di legalizzazione di unioni omosessuali. Abbiamo sentito l'avvocato Gianetto Regassani, ce l'ha spiegato da un punto di vista prettamente giuridico. Abbiamo sentito l'antropologa Ida Magli, che vede come una sorta di declino estremo dell'Occidente il fatto che non sia più la famiglia tradizionalmente intesa il nucleo fondamentale della società. Sentiamo Bert, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare il mio contributo, essendo fratello di un uomo che è sposato 2 anni fa in Belgio, sono belga di origine, e anche ho una sorella acquisita, anche lei sposata con sua compagna da 3 anni ormai. Quindi lei ha un fratello sposato con un uomo e una sorella sposata con una donna. Esatto, esatto. No, quindi, è una quindi lei diciamo è una famiglia paradigmatica rispetto alla mutazione che sta avvenendo nella società. Assolutamente. Lei con chi si sposerà? È indeciso ancora? Ah no, io sono sposato, mia moglie è italiana. Quindi rappresentate diciamo tutto lo spettro delle possibilità. I suoi genitori hanno avuto 3 figli, uno si è sposato con un uomo, una si è sposata con una donna e uno si è sposato con una donna. Quindi abbiamo coppia lesbo, coppia gay maschile e coppia tradizionalmente costruita, ecco. Sì, no, in realtà la famiglia è ancora più larga, insomma io in totale ho 8 fratelli, quindi... E gli altri cosa hanno fatto? Ma per ora gli altri, uno è sperato, non è sposato, ha un figlio e ha un contratto di convivenza praticamente, quindi c'è anche quello, insomma. Cioè voi siete proprio un caso giuridico, l'avvocato Gassani potrebbe studiarlo. Lo invitiamo a un corso. Assolutamente. Quindi però voi siete la dimostrazione in una famiglia in cui tutto è possibile e non accade nessuna tragedia. Ma infatti, è proprio l'espressione del fatto che la diversità è un valore per la società e non capisco perché l'antropologo lo vive come una deteriorizzazione e credo che questo aggiunge davvero un grosso valore alla società e dà la possibilità alle persone con un orientamento sessuale diverso ad essere se stesso e dare e contribuire a questa società, perché fino al momento in cui non erano sposati venivano additati come diversi e avevano grossi problemi psicologici, adesso invece possono fare il loro lavoro. In Belgio com'è il diritto in Belgio, per capire? In Belgio può avere una regolare unione giuridica una coppia omosessuale? Esatto, hanno uguali diritti e uguali doveri, ovviamente anche. Da quanto tempo accade questo, per capire poi l'impatto sulla società? Allora, credo che sono circa 3 anni che è possibile sposarsi in Belgio, quindi gli uni gay, prima il contratto di convivenza potevano anche avere, però non avevano uguali diritti, adesso invece con il fatto che si possono sposarsi è tutto identico, insomma, possono anche adottare i figli, ad esempio. E questa è chiaro. Gustavo, sentiamo Gustavo. Gustavo, buongiorno. Buongiorno, uomo sposato con una donna con 4 figli. Ho 2 o 3 cose da dire e le dico subito. Primo, un comportamento umano non costituisce di per sé un diritto, perché sennò il comportamento mafioso, che in Italia mafiosamente non viene punito dalla legge, ma viene punito il reato associativo, assurdo, potrebbe essere, se va al potere uno qualsiasi dei mafiosi che c'è in Italia, un comportamento normale, costituire fondamento giuridico. Beh, allora, è una società, un'organizzazione mafiosa è un'organizzazione che vive vessando e compiendo crimini. Se la mafia diventa il 51%, lì se lo prende se lo tiene. Eh no, ma compie un crimine la mafia, scusi, uno che si sposa... È successo in Italia, perché in Italia il comportamento penale è un fatto personale. Invece nel reato mafioso, guardi caso, è punito solo il reato associativo. È già un Parlamento mafioso quello che ha fatto questa cosa, perché ha eliminato la responsabilità personale nell'ambito penale. Si ferma un attimo, Gustavo. Attenzione. No, diciamo delle eresie. Avvocato Gassani, non ho capito molto bene, però già associare in sé l'associazione mafiosa, che è un'associazione finalizzata al crimine, a 2 persone che si vogliono sposare, mi sembra un po' azzardato. Mi sembra un parallelo felice, onestamente. Onestamente non credo che si possa paragonare una scelta di vita a dei criminali, insomma. Perché già penalizza lei, Gustavo, questa cosa qui? Sì, certo. Allora, ascolti, non è una questione pregiudiziale. L'avvocato lo sa bene. Il fondamento di un diritto, di un nuovo diritto, fa parte del dover essere. Studia l'essere per andare a normalizzare e a regolare la vita del dover essere. A me mi sta bene. Vogliono fare le coppie gay? Facciano le coppie gay, vogliono l'adozione, lì non sono d'accordo per 2 ordini di motivi. Quindi lei è d'accordo che abbiano un riconoscimento giuridico? Per carità, è che sono un animale. Perfetto. Sono animali loro. Allora, se siamo fratelli esseri umani, siamo fratelli esseri umani. Se dobbiamo fare la guerra, dica loro come dica, sessuale, scusi, sociale, c'è figli di un dio minore, loro potrebbero essere domani uno dei suoi 4 figli, cioè, non è detto che... Io ho una scelta di vita, chiedo chiedo che loro rispettino la mia come io chiedo, come io posso rispettare la loro. Ma non la rispettano, noi voglio semplicemente dire è la base di una convivenza. Vogliamo prenderci un mutuo assieme, vogliamo che uno sia erede dell'altro se succede qualcosa. Mi sembra una cosa banalmente è una scelta personale loro, cioè non poi, vedo il problema. Alle cosa le cambia se una coppia gay è riconosciuta giuridicamente? Non credo che questo cambi la vita a nessuno. Dà più leggerezza generale a tutti, ci saranno meno tensioni in giro. Sentiamo Alessandra. Alessandra, buongiorno. Semplicemente, una coppia secondo me è formata da un uomo e una donna. È il suo punto di vista. E questa è la base. È un suo rispettabilissimo punto di vista. Benissimo, però... Non tutti la pensano così, però c'è anche chi la pensa. Per l'amor del cielo. Comunque, quella è la base della società, è la base della famiglia. Che noi vogliamo giustificare il tutto, soprattutto quando ci sono dei figli. Io non lo trovo assolutamente giusto. Quantomeno perché secondo me è comunque non è una coppia, non essendo una coppia non rientra nei canoni delle coppie. Provo a dire Alessandra, io trovo che sia un suo rispettabilissimo punto di vista, ma se una persona non la pensa come lei, perché deve essere benissimo, ma faccia le sue scelte, però non se le finisca coppia. Perché non si definisca coppia, scusi? Perché non è una coppia. Ma se si amano, si vogliono bene e stanno assieme, cosa sono? Sono due persone che si vogliono bene. Non sono una coppia, scusa, uno e uno fa due, due significa coppia. Perché? Allora, io voglio bene tantissime persone. L'amore che provo per mio marito, che provo per mia moglie è una cosa diversa, l'amore di coppia è una cosa diversa. Non essendo una coppia, lei rappresenta un punto di vista e il punto di vista è questo. Se sono queste le argomentazioni per impedire il riconoscimento dei matrimoni gay, penso che la partita è persa per loro. Io credo invece una cosa, cerchiamo di non vietare più nulla in questo paese, perché questo è un paese che ha vissuto anni e anni di divieti su ogni fronte. Grazie avvocato Gassani, grazie a quelli che hanno partecipato, i punti di vista li abbiamo espressi tutti e siamo contenti. Melog, la realtà condivisa.